giovanino su un prato, ridevamo prevedendoci il passato. Quando tu volevi essermi d'aiuto, tutti zitti, solo io sono arrossito. Spero tanto che non sia un'avventura questa storia, anche se ne ho un po' paura. Tante frasi sciocche e certi doppi sensi, pomeriggi di amnesie e di cieli immensi. Se solo avessi avuto amica l'esperienza che matura da equilibrio ad ogni assenza. Disarmato nei confronti della vita, sono andato ed ho perso ogni partita. Spero tanto che non sia un'avventura questa storia, anche se ne ho un po' paura. Questa storia, anche se ne ho un po' paura. Ed ho cercato un modo senza averlo mai di andare avanti, sai, affrontando i guai. Scusa questi miei discorsi da buttare, con una birra e le tue labbra da baciare. E il giorno perde luce, scende la barriera. Con l'esperienza avrei potuto avere lei, con l'esperienza un giorno diventare noi, con l'esperienza. Tu mi immagini un poeta un po' sbandato, però in fondo che ne sai del mio vissuto. Sai, col rosso della sera viene voglia di sperare, di cercare e respirare. Spero tanto che non sia un'avventura questa storia, anche se ne ho un po' paura. Questa storia, anche se ne ho un po' paura. Ed ho cercato